se mi sfiori come un piano. Sei sole, pioggia tu, giochi con il tasto nero, sei la nota che fa il blues. Se mi sfiori come un piano, io dimentico che tu sei soltanto un altro uomo, una luce che andrà giù. Mai ti avrò immaginato più diverso da me. Sei arrivato come l'inverno all'improvviso. Voglio te, voglio te, voglio te, voglio te, voglio te, voglio te. Se mi sfiori come un piano, servi solamente tu, perché questo